Le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. La bufera arriva a Napoli, due arresti per l'appalto sulla manutenzione delle strade, in cella l'imprenditore Romeo, coinvolti anche Bocchino del Popolo della Libertà e Lusetti del Partito Democratico. La Iervolino ora invoca un chiarimento. E il Presidente della Repubblica Napolitano richiama alla questione morale, serve senso dello Stato, dice Giorgio Napolitano. E Luana Englaro, tutto rinviato? La casa di cura città di Udine non ritira la sua disponibilità ad interrompere l'alimentazione forzata, ma si attende un parere giuridico dopo l'indirizzo del ministro Sacconi. Positiva la reazione dei mercati finanziari al taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il costo del denaro in America ora è praticamente nullo. Ma ora tocca all'OPEC che di fronte alla crisi potrebbe tagliare la produzione di petrolio. A processo a Baghdad il giornalista iracheno che ha lanciato la scarpa contro il presidente americano George Bush rischia 15 anni di carcere. In Iraq, a sorpresa questa mattina, è arrivato Gordon Brown. Premiati gli atleti italiani che hanno vinto alle Olimpiadi. Le nostre 936 medaglie sono il miglior biglietto da visita per l'Italia, dice il CONI. GR Extra Large, buongiorno ad Alessio Maurizi. E buongiorno da Anna Migliorati. E dunque, dopo l'Abruzzo, dopo la Basilicata, ora la bufera è scoppiata anche a Napoli. Questa mattina anche qui sono scattati arresti per tangenti, travolta dal ciclone la giunta Iervolino. In carcere sono finiti, sentivate nei nostri titoli, due assessori, coinvolti sono anche due parlamentari. Allora andiamo subito a Napoli e cominciamo proprio a capire qualcosa in più dell'inchiesta partenopea. In procura a Napoli c'è Laura Viggiano. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. In questo momento è iniziato l'incontro con i giornalisti del procuratore della Repubblica di Napoli, Giovan Domenico Lepore. Ribadiamo un attimo alcuni tratti essenziali di questa inchiesta. Sono 12 le ordinanze cautelari che sono state eseguite. Una è in carcere, le altre sono agli arresti domiciliari. L'unica persona agli arresti in carcere è Alfredo Romeo, l'immobiliarista, insomma, che è il soggetto principale dell'inchiesta Global Service. Una inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, poiché parte tutto da un'altra indagine che è iniziata da Santa Maria Capovetere sul comune di Orta Viatella in provincia di Caserta. Il personaggio centrale in questo caso è Angelo Brancaccio, ex sindaco del piccolo comune del Casertano. Attraverso intercettazioni in pratica è stata ricostruita una rete di rapporti dell'ex sindaco con imprenditori dell'area atellana, tra cui Gaetano Lampitelli, che a sua volta era collegato a Cirino Fiumicino. Da ulteriori intercettazioni telefoniche poi si è arrivati ad Alfredo Romeo e ai contatti che questi intratteneva con l'ex provveditore alle ordine pubbliche di Napoli, Mario Mautone, durante i quali emergeva questo esclusivo interesse dell'imprenditore a trattare direttamente con Mautone i prezzi relativi all'appalto per la manutenzione delle strade cittadine di Napoli, quindi per il Global Service. Dall'analisi delle conversazioni però fatte da Santa Maria Capovetere è emerso un quadro che i magistrati definiscono allarmante di commistioni in relazione appunto ad una pluralità di appalti. In una conversazione c'è una frase che viene riportata in un comunicato della Procura di Napoli: no, se non fosse così io non posso partecipare, hai capito? La frase pronunciata da Romeo, padre e padrone, così viene definito, di uno dei maggiori gruppi imprenditoriali nazionali operanti nel settore dei servizi di gestione e manutenzione immobiliare. La dice a Giorgio Nunes, l'assessore morto suicida alla fine dello scorso mese, indicato in un'altra inchiesta della Procura di Napoli, che all'epoca della conversazione era assessore alla viabilità del Comune di Napoli. Quello che sostengono i magistrati è che l'indagine ha dimostrato in realtà molto di più, cioè che i metodi adoperati da Romeo per aggiudicarsi ogni tipo di gara a cui prende parte, da quelle nazionali a quelle internazionali, praticamente sono metodi molto particolari e addirittura comunque implicano anche bandi appalti che riguardano lo Stato Vaticano Insomma, Laura, una trama degli affari naturalmente che andranno poi anche ricostruiti in tutti i loro aspetti, ma è questa anche, grazie intanto a Laura Viggiano, una bufera che è immediatamente politica e che ricade sulla giunta Iervolino. Una giunta già in difficoltà. Il sindaco Iervolino solo pochi giorni fa diceva, ricorderete, nessuno dei miei assessori è indagato, ora lo sono e come. E allora andiamo anche in comune a Napoli da Enzo Danna. Sì, buongiorno dalla sede del comune di Napoli. Iervolino resta alla guida dell'amministrazione comunale, almeno per ora. Gli sviluppi dell'inchiesta sul Global Service che ha investito in pieno la sua giunta scatenando un vero e proprio terremoto politico la induce a riflettere e confrontarsi, sono parole sue. In una affollata conferenza stampa qui a Palazzo San Giacomo il sindaco ha annunciato che nelle prossime ore si confronterà appunto con i partiti per poi decidere se continuare o meno a svolgere il suo mandato. Il primo cittadino ha anche ricordato come appena pochi giorni fa il centro-sinistra le aveva rinnovato la fiducia, ma sentiamo la voce del sindaco. Come avevo detto ieri, rispetto massimo per la magistratura e naturalmente adeguamento immediato alle appunto decisioni della magistratura. Per quanto riguarda gli assessori, diciamo, in servizio, le decisioni della magistratura riguardano due assessori di Mezza e Laudadio che io devo immediatamente sospendere, cosa che farò nel giro di 20 minuti. Va detto appunto per correttezza e rispetto verso appunto gli assessori che qui ci sono appunto c'è la richiesta di Mezza di essere sospeso dal servizio. Questo è il sindaco di Napoli, Iervolino, grazie a Enzo Danna. Torneremo naturalmente anche più avanti nel corso di Extra Large su questa vicenda, faremo un'intervista anche all'ex senatore napoletano Massimo Villone per cercare di capire davvero che, quali sono le dimensioni di questa bufera. Ce n'è un'altra di bufere che è partita dall'Abruzzo e a Pescara torniamo con Stefano Totoro per capire anche lì che succede. Stefano. Sì, buongiorno a voi nostri ascoltatori. Emergono elementi nuovi dell'inchiesta che ha portato due giorni fa all'arresto dell'ormai ex sindaco di Pescara Luciano D'Alfonso, del suo collaboratore Guido Dezio e dell'imprenditore Massimo De Cesaris. Come in un complesso gioco di scatole cinesi ci sono particolari che uniscono questa inchiesta a quella che a luglio ha decapitato la giunta regionale con l'arresto di Ottaviano Del Turco. Nell'inchiesta pescarese tutto ruota attorno ad aree urbane da riqualificare. 38 persone indagate, molti costruttori e imprenditori nel ramo dell'edilizia. Il nome di Carlo Toto, presidente di Eruane, oggi socio CAI, è quello che spicca maggiormente. Toto e D'Alfonso, dice il GIP, agiscono come un'unica entità politico-imprenditoriale. Ricordiamo che Carlo Toto risulta indagato. Viaggi aerei, cene gratis, macchine con autista, erogazioni liberali avvenute nel corso degli anni a favore del sindaco per aggiudicarsi alcuni dei lavori. Fra le carte è stata poi ritrovata una lettera del 2005 di Luciano D'Alfonso all'imprenditore della sanità privata Luigi Pierangeli, indagato in questa inchiesta per raccomandare il candidato alla presidenza della regione Ottaviano Del Turco. Pierangeli, lo ricordiamo, è noto in Abruzzo anche perché è il principale concorrente di Vincenzo Angelini, re delle cliniche e grande accusatore dell'ex governatore. E questa lettera è contenuta in un atto che unisce le due inchieste che da luglio mettono all'angolo il PD abruzzese. Grazie Stefano Totoro, davvero dicevamo un sassolino che diventa una valanga, un contagio. Sembra davvero che in questi giorni si siano messi d'accordo o i giudici o i presunti corruttori, perché c'è un'altra vicenda che riguarda Tangenti. Qua siamo in Basilicata, ci stiamo spostando sempre più a sud e anche qua andiamo con gli aggiornamenti. La decisione è attesa per domani, ma l'orientamento è chiaro. La giunta per le autorizzazioni della Camera appare propensa a negare l'arresto ai domiciliari di Salvatore Margiotta, il parlamentare lucano del Partito Democratico che, secondo la ricostruzione del PM di Potenza, Woodcock, sarebbe coinvolto nel comitato d'affari nato per gestire gli appalti legati al petrolio in Basilicata. I componenti della giunta bocciano la richiesta della procura. Com'è possibile, dice Pierluigi Mantini del PD, per uno che ha studiato un filo di diritto proporre una custodia cautelare su una base così inconsistente? Lo stesso Margiotta ha ribadito la sua innocenza e ha parlato di un fumus persecutionis da parte di Woodcock nei suoi confronti. L'inchiesta ieri ha portato all'arresto, tra gli altri, dell'amministratore delegato di Total Italia Lionel Levà e ha chiamato in causa diversi esponenti politici. Ai domiciliari è finito il consigliere provinciale di Matera del PD Nicola Montesano, mentre risultano indagati il presidente della provincia di Matera Carmine Nigro, Popolari Udeur, e il presidente della regione Vito De Filippo del PD. Oggi il Corriere pubblica alcuni strati dell'ordinanza in cui si riferisce di un colloquio tra l'imprenditore Francesco Rocco Ferrara e Salvatore Margiotta, che non è stato però intercettato perché all'aperto, mentre è stata intercettata un'altra telefonata dello stesso Ferrara a un'amica. L'imprenditore riferisce di aver offerto a Margiotta 200.000 euro per ottenere l'appalto dell'impianto di estrazione Total. Salvatò, io voglio il lavoro, lo voglio. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. E a chiudere il quadro di oggi, la Procura Generale di Catanzaro, anche qui è arrivata una decisione, ha chiuso l'inchiesta Why Not, ricorderete quella che fu aperta da De Magistris, si va verso l'archiviazione per l'ex premier Romano Prodi, ma sono arrivati avvisi di garanzia. Sono arrivati al presidente della Regione Calabria, Gazio Loiero, l'ex vicepresidente Chiara Vallotti, assessori ed ex assessori regionali, consiglieri, il sindaco di Cosenza, politici e funzionari regionali di entrambi gli schieramenti. Davvero? Adesso ridiamoci su perché ci sono anche le vignette su questi argomenti. Cominciamo con Giannelli sulla prima pagina del Corriere della Sera. Questa riguarda soprattutto l'Abruzzo. C'è un Tonino Di Pietro che lancia una scarpa. Qua si mettono insieme vicende diverse. Verso Silvio Berlusconi, che è inevitabilmente basso. Inevitabilmente la scarpa va oltre la sua testa e colpisce Veltroni, che si trova dietro. E poi invece molto più sarcastica LK su Repubblica. Il crollo del PD e la questione morale. Ottime macerie di riflessione. E allora come l'hanno presa i palazzi romani? Elisabetta Fiorito. Le reazioni politiche agli scandali di questi giorni ovviamente non si fanno attendere, prima tra tutte quelle all'interno del Partito Democratico, che si incrociano anche con la riforma della giustizia proposta invece dal ministro Angelino Alfano. Nel PD quindi Luciano Violante propone di affrontare la questione con determinazione alla prossima direzione del partito di venerdì. Per Rosi Bindi il PD non si deve far stritolare tra il giustizialismo di Di Pietro e la proposta di un patto improprio con Berlusconi sulla giustizia. E da parte dell'Italia dei Valori sulla questione interviene Leoluca Orlando. Sentiamo. Il PD amministra il 70% delle autonomie locali di questo paese, con amministratori competenti e onesti. In alcune realtà emergono delle vicende sulle quali è giusto che la magistratura faccia il suo corso, ma la politica deve fare la sua parte. Io credo che noi dobbiamo lavorare per rinnovare la nostra presenza, i nostri metodi, i nostri uomini e rafforzare le energie nuove che stanno emergendo in quelle realtà. Nel Popolo della Libertà Fabrizio Cicchitto attacca, il PD non è più abilitato a parlare di questione morale, mentre Gaetano Pecorella sprona ad andare avanti con la riforma della giustizia. Sentiamo. Prima di parlare di Tangentopoli bisognerà vedere se il fenomeno è così ampio e quali sono gli elementi in base ai quali i magistrati chiedono arresti o mandano informazioni di garanzia. Certamente oggi, a differenza che in passato, l'intervento della magistratura riguarda tutti i partiti, ma è anche vero che oggi tutti i partiti avevano intenzione di trovare un accordo per cambiare alcune regole della magistratura. Grazie allora ad Elisabetta Fiorito. E a chiosare questa giornata in cui le notizie di inchieste di corruttela che riguardano i politici si accavallano, arriva la dichiarazione del Capo dello Stato che ha detto è essenziale il senso dello Stato. Speriamo naturalmente che sia ascoltato. Silenzio questa mattina e forfè intanto del premier Berlusconi, che doveva presiedere alla premiazione degli atleti del CONI che hanno vinto alle Olimpiadi, atleti che comunque le loro medaglie le hanno ricevute. Andrea Viali. Sì, sono 33 per l'esattezza gli atleti, mentre 15 le società sportive che hanno ricevuto oggi il diploma d'onore e soprattutto il collare d'oro, che è la massima onorificenza conferita dal CONI ai vincitori dell'oro olimpico, ai vincitori dei campionati mondiali delle diverse discipline olimpiche, ma anche a chi ha vinto manifestazioni sportive internazionali particolarmente importanti. Tra questi atleti premiati oggi ci sono fra gli altri la nuotatrice Federica Pellegrini, i pugili Cammarella e Russo, la judoka Giulia Quinta Valle, il marciatore Alex Schwanz, la schermitrice Valentina Vezzali e i campioni di motociclismo Marco Simoncelli e Valentino Rossi. Nel corso della cerimonia il presidente, il padrone di casa, il presidente del CONI Petrucci, ha detto che l'Italia dovrebbe essere ricordata non soltanto per il suo patrimonio artistico ma anche per i suoi successi sportivi. Sentiamo Petrucci. Ecco, io vorrei che da oggi venisse aggiunto un altro dato. Sono 936 le medaglie olimpiche ottenute nella storia dello sport italiano. Siamo il sesto paese al mondo nella classifica generale. Anche in un recente incontro i nostri imprenditori industriali hanno detto che i risultati olimpici sono i migliori spot per il Made in Italy nel mondo. 13:19 minuti, GR24 Extra Large. Dopo Abruzzo e Basilicata, arresti anche a Napoli per tangenti. Ai domiciliari sono finiti questa mattina due assessori della giunta Iervolino, in carcere l'imprenditore Alfredo Romeo, coinvolti anche due parlamentari, Italo Bocchino e Renzo Lusetti. L'indagine ruota attorno ad una delibera del comune di Napoli che intendeva affidare a un unico gestore l'appalto di una serie consistente di lavori pubblici. Fu varata, ma l'appalto non è mai partito. E cogliendo l'occasione questa mattina dell'incontro con gli ambasciatori d'Italia riuniti alla Farnesina, è intervenuto il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Il tratto essenziale è naturalmente rappresentato dal senso dello Stato, che dovrebbe distinguere chiunque svolga una funzione rispondente solo all'interesse collettivo. Alla casa di cura Città di Udine era tutto pronto per sospendere l'alimentazione ad Eluana Englaro, ma ora è tutto sospeso all'indomani dell'atto di indirizzo del ministro Maurizio Sacconi. Si attende un parere sul possibile conflitto con la decisione della Cassazione. Positiva la reazione dei mercati finanziari al taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il costo del denaro in America ora è praticamente nullo e oggi l'OPEC vara il taglio della produzione di petrolio, meno 2 milioni di barili al giorno. Non ci sarà in Europa la giornata lavorativa di 65 ore. Questa mattina il no del Parlamento europeo, che ha respinto la proposta, accolti tutti gli emendamenti della Commissione Lavoro. Un sì atteso a Strasburgo al pacchetto clima è arrivato questa mattina a larghissima maggioranza. Intanto in Europa sono fuori norma le città. 44 su 50 fuori legge per i limiti delle polveri sottili, le PM10. La città più virtuosa, Parma. Lorenzo Bertuccio, direttore scientifico di Euromobility. Gli sforzi soprattutto in Pianura Padana sono spesso vanificati sul fronte della mobilità, da condizioni meteorologiche molto penalizzanti. Direi che se gli sforzi fossero molto più forti, i risultati potrebbero essere decisamente migliori. E riprendiamo la vicenda Napoli a questo punto. Salutiamo Massimo Villoni, buongiorno. Villone. Buongiorno. Docente di diritto costituzionale all'Università Federico II di Napoli, ex consigliere comunale dei DS dal 92 al 96 a Napoli, poi dal 94 parlamentare DS, però non si è ricandidato alle ultime elezioni. Facciamo un po' anche la sua biografia, così lo presentiamo anche ai nostri ascoltatori. Villone è noto per avere per primo posto la questione morale nei DS di Napoli, finita un po' l'euforia della prima giunta Bassolino. Bassolino ha denunciato sprechi e mala gestione con puntualità, ha scritto con Cesare Salvi il libro Il costo della democrazia, che è il precursore del notissimo Casta, parlando proprio diffusamente della situazione Campania. Onorevole Villone, a questo punto la domanda è, lei se l'aspettava che la parabola che lei ha contribuito a descrivere da un po' di tempo a questa parte arrivasse fino a questo punto a Napoli? Certo, i segnali c'erano, si poteva anche pensare che si potesse per tempo provvedere, cambiando anche indirizzo, ripristinando, come dire, un rigore di prassi politico-amministrative che non necessariamente andavano disperse, però non si è fatto e quindi adesso credo vediamo il risultato che poteva essere evitato e che non si è evitato. Senatore, la questione rifiuti quanto c'entra in tutto questo? Ma certamente c'entra come contesto generale, perché la questione dei rifiuti non ha ovviamente, penso, un'incidenza diretta specifica, però ha segnato un caso evidente nel quale la politica, come dire, ha subito un collasso, perché è stata la mancanza della politica che ha determinato sia il contesto di guerriglia urbana a cui abbiamo assistito, sia tutto ciò che poi ha portato anche alla rilevanza nella sede giudiziaria. Se ci fosse stata una politica attenta, consapevole, capace di mettere un fermo, di dire basta, confrontiamoci, discutiamo, facciamo le scelte più ragionevoli e politicamente e amministrativamente più corrette, certamente sarebbe andata diversamente la questione dei rifiuti urbani. Lo stesso contesto produce oggi quello che vediamo le vicende di stamattina. Onorevole Villone, lei che appunto, come dicevamo, ha contribuito a denunciare vicende di malaffare in Campania, ma anche più in generale, a questo punto c'è la bufera sul comune di Napoli, c'è Bassolino, presidente della regione, che comunque è coinvolto in un'altra inchiesta. Fin dove arriva all'interno, per esempio, di un partito come il Partito Democratico il livello di responsabilità in questa situazione? Poi oggi il sindaco Iervolino, le chiedo, ha detto che sospenderà probabilmente i due assessori. È una risposta sufficiente? Devo dire che la mia personale opinione per quanto riguarda la risposta del sindaco Iervolino è che mi sembra purtroppo debole, perché sarà intesa dall'opinione pubblica cittadina come un prender tempo, come un non sapere che fare in contesti di questo genere. E come ha detto la Iervolino, aprire un confronto con le forze politiche della maggioranza, con i partiti che tra l'altro in questo momento sono totalmente inesistenti, diciamo, quindi questo non credo che sarà letto favorevolmente all'opinione pubblica napoletana. E per quanto riguarda i vertici, beh, certo, guardi, qui c'è un problema che viene da lontano, perché noi abbiamo, come io ho raccontato con Cesare Salvi nel libro che voi avete citato, abbiamo nel tempo allentato vincoli, controlli, tolto forme di responsabilità, abbiamo collettivamente, poi io magari sono stato contrario in tante occasioni, ma diciamo come scelte politiche legislative, pensando di far bene, di agevolare il compito delle amministrazioni locali di efficienza, abbiamo ampliato le discrezionalità molto e abbiamo ridotto controlli, vincoli e paletti moltissimo. E siamo arrivati fino a questo punto. Grazie, ci dobbiamo fermare qua. Grazie a Massimo Villone per essere stato con noi. Però gli ascoltatori, diciamo che più avanti nel corso di Extra Large torneremo sulla questione Napoli con altri servizi e approfondimenti. Un'altra questione dibattuta in queste ore, l'avete sentita anche nei nostri titoli. Appena avremo il via libera dei legali della famiglia, Luana Englaro sarà trasferita ad Udine, così ha detto questa mattina l'amministratore delegato della Casa di Cura Città di Udine, dopo l'atto di indirizzo del ministro del welfare Sacconi, contrario, ricordiamo, all'interruzione dell'alimentazione a qualunque persona diversamente abile. E allora sentiamo a che punto siamo. Alla casa di cura Città di Udine era tutto pronto, la stanza e l'equipe medica di 20 volontari disposti ad accompagnare Luana verso la morte. Ma l'atto di indirizzo del ministro Sacconi, che definisce illegale la sospensione dell'alimentazione ai pazienti in stato vegetativo, ha bloccato il trasferimento. Temporaneamente, ha chiarito Claudio Riccobon, amministratore delegato della struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Regionale, che ha confermato la disponibilità ad ospitare Luana una volta sciolto il nodo legale. Si è ritenuto quindi di sospendere temporaneamente l'iter in attesa che i legali che tutelano la signora Englaro e la sua famiglia dimostrino che l'incursione del ministro Sacconi non intacca la validità del decreto che invece autorizza il protocollo assistenziale di distacco dall'alimentazione artificiale. Non vogliamo far correre rischi a nessuno, conferma il legale degli Englaro, Vittorio Angiolini, che parla di una vera e propria intimidazione da parte del governo. Mentre la curatrice speciale Franca Alessio annuncia quella che potrebbe essere la soluzione. Chiederemo alla Corte d'Appello di Milano di emettere una formula esecutiva del decreto. Carlo Alberto De Fanti, il neurologo che ha in cura da anni Luana e che ieri era pronto a salire sull'ambulanza diretta a Udine, bolla come subdolo l'atto di Sacconi. Hanno individuato, dice, l'anello debole di tutta la catena, la clinica, attuando una minaccia concreta. Il Ministero del Welfare intanto ribadisce la validità del documento, al quale, dice il sottosegretario Francesca Martini, le strutture pubbliche e private devono attenersi. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E oggi ce n'è davvero bisogno di notizie un po' più piacevoli. Tiriamo un po' il fiato, parliamo di musica. In occasione dell'imminente decennale della morte di Fabrizio De André, escono su CD 3 canzoni inedite registrate dal cantautore genovese, pensate, all'inizio degli anni 60. Ci racconta tutto Paolo Panceri. Altra canzone mormora piena d'occulte gioie, d'occulti affanni, somiglia al canto della mia Lena morta a vent'anni. Un giovanissimo Fabrizio De André, poco più che ventenne, esegue dai Monti della Savoia, vicenda triste, come si può sentire, di un cantastorie. È uno dei tre inediti di Faber, registrato all'inizio degli anni 60 insieme a Maria Giuana, testo riarrangiato della tradizione piemontese e alla goliardica Bella se vuoi volare, con giochi di parole e doppi sensi, ispirata al repertorio di una compagnia di universitari genovesi. Le tre canzoni escono ora in occasione dell'imminente decennale, il prossimo 11 gennaio, della morte di De André. Il cofanetto si chiama FDA, Sulla mia cattiva strada, e comprende anche un documentario di Teresa Marchetti. I tre nastri appartenevano al fondo del musicologo anglo-genovese Edward Neal, acquistato nel 2003 dalla Fondazione De Ferrari. Il presidente Fabrizio De Ferrari ci spiega la probabile genesi delle registrazioni da parte di Neal. Negli anni 60, nel suo studio di Genova, in San Luca, con tutta probabilità, ha registrato questi inediti di Fabrizio De André, portando De André ad avvicinarsi alla musica popolare ben prima del disco Creusot de Mai. Quando è uscito Creusot de Mai era il 1983, il primo disco d'autore in dialetto che De André aveva cantato in genovese. In realtà questo piccolo master dimostra che l'avvicinamento di De André al dialetto è avvenuto circa 20 anni prima. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:34, 50 secondi, tutte le notizie di GR Extra Large. Arresti anche a Napoli per tangenti. Ai domiciliari sono finiti questa mattina due assessori della giunta Iervolino. In carcere l'imprenditore Alfredo Romeo. Coinvolti anche due parlamentari, Italo Bocchino del PDL e Renzo Lusetti del PD. L'indagine ruota attorno ad una delibera del comune di Napoli per affidare a un unico gestore l'appalto dei servizi di alcuni consistenti lavori pubblici. Fu varata, ma l'appalto non è mai partito. Bufera anche politica, e così le prime reazioni del sindaco Iervolino. Non voglio dire sono contenta, perché poi esce il sindaco e contento, ma sono in qualche modo nella condizione psicologica di chi vede un fantasma finalmente concretizzarsi. Alla casa di cura città di Udine era tutto pronto per sospendere l'alimentazione di Eluana Englaro, ma ora è tutto sospeso all'indomani dell'atto di indirizzo del ministro Sacconi. Si attende un parere sul possibile conflitto con la decisione della Cassazione. Claudio Ricco Bon è amministratore delegato della casa di cura, sentiamo. Si è ritenuto quindi di sospendere temporaneamente l'iter in attesa che i legali che tutelano la signora Englaro e la sua famiglia dimostrino che l'incursione del ministro Sacconi non intacca la validità del decreto che invece autorizza il protocollo assistenziale di distacco dall'alimentazione artificiale. L'inflazione cala non solo in Italia, ma in tutta la zona euro. È al 2,1% a novembre rispetto al 3,2% di ottobre. Oggi la comunicazione di Eurostat. E oggi l'OPEC si riunisce per rispondere alla minore domanda di petrolio dovuta alla crisi e varare un taglio della produzione di greggio, meno 2 milioni di barili al giorno. Premiazione per gli atleti italiani che hanno vinto le Olimpiadi questa mattina con i collari d'oro. Il presidente del CONI, Gianni Petrucci. Sono 936 le medaglie olimpiche ottenute nella storia dello sport italiano. Siamo il sesto paese al mondo nella classifica generale. I nostri imprenditori industriali hanno detto che i risultati olimpici sono i migliori spot per il Made in Italy nel mondo. E ora, prima di arrivare alle notizie economiche, c'è da rendere conto della riunione OPEC, come dicevamo nei titoli, che varerà probabilmente un taglio del prezzo della produzione di petrolio. Ve l'avevamo promesso, un nuovo approfondimento sulla vicenda Napoli. Questa volta Annalita D'Ambrosio fa la ricostruzione di tutto quello che sono le trame giudiziarie di questa vicenda. Sentiamo. Tutto comincia nel 2004, quando a Napoli infuria l'emergenza, buche per le strade. La giunta è sotto assedio, il sindaco Iervolino convoca gli assessori e con loro discute sul da farsi. L'esecutivo decide di affidare all'Università Federico II uno studio sulla materia, all'epoca di competenza di Ferdinando Di Mezza, assessore raggiunto oggi da uno dei provvedimenti di custodia. La risposta dell'Ateneo è la creazione di un global service per la gestione della viabilità, dalla manutenzione all'arredo urbano. Circa 400 milioni di euro impegnati da spalmare in 9 anni. Unico il soggetto gestore, da scegliere attraverso una gara ad evidenza pubblica. Lo strumento, già adottato in altre città, convince la Giunta, che lo trasforma in una delibera da proporre al Consiglio. Qui il provvedimento però si arena. Nel maggio del 2006 la Iervolino viene confermata sindaco di Napoli e forma la sua seconda squadra di governo. Le strade passano in gestione a Giorgio Nunes, l'assessore poi suicidatosi, che si mette al lavoro su Global Service, modificando il progetto iniziale e riportandolo in giunta, dove però la delibera non riesce a passare, soprattutto per le proteste dei consiglieri di Rifondazione Comunista, che guardano con sospetto al megaappalto. Alla fine, dopo una lunga battaglia e l'approvazione di numerosi emendamenti, la delibera incassa il sì dell'Aula. I voti a favore sono 37, i contrari 7, un solo astenuto. È il 3 aprile 2007. La delibera non è mai diventata poi operativa per mancanza di copertura finanziaria. Anna Rita D'Ambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. Una promessa, torneremo ancora più avanti sulla vicenda Napoli. Ora però c'è la pagina economica. Ancora segni di recessione nel dato europeo sull'inflazione, calata, secondo Eurostat, dicevamo, nettamente a novembre, al 2,1% dal 3,2% di ottobre. E continua anche la discesa del tasso Euribor a 3 mesi, quello su cui si calcolano i mutui, giunto al 3,16% dal 3,20% di ieri. E molti naturalmente festeggiano. Sorridono. Esatto. E la crisi però ha avuto anche come effetto quello di raffreddare la corsa del prezzo delle materie prime. Innanzitutto il petrolio, la quotazione è calata enormemente negli ultimi mesi. Oggi, proprio per fare fronte a questa situazione, i paesi produttori dell'OPEC si riuniscono ad Algeri per decidere molto probabilmente un taglio della produzione. Ci colleghiamo allora con Algeri, dove c'è Roberto Bongiorni. Salve Roberto, e quali sono le attese? Sì, buongiorno a tutti. Dunque, avendolo detto il ministro saudita dell'energia Al-Naimi che ci sarebbe stato un taglio di 2 milioni di barili al giorno, è molto probabile che tra poco verrà confermato questo taglio. Si tratta della riduzione più cospicua da parte dell'OPEC almeno negli ultimi 10 anni, alla quale tra l'altro corre voce si dovrebbero aggiungere dei tagli da parte di paesi esterni all'OPEC, in prima linea la Russia. Corre la voce, secondo sempre alcune fonti saudite, che la Russia sarebbe pronto a tagliare 300.000 barili al giorno. Corre anche un'altra voce piuttosto curiosa, che lo stesso Azerbaijan sarebbe pronto a tagliare addirittura 300.000 barili. È un'ipotesi difficile da spiegare, forse azzardo, è la BP, che è il principale operatore, che sta stringendo un po' i rubinetti. Comunque quello che emerge da questo vertice è che l'OPEC opererà un taglio molto forte per fermare la caduta dei prezzi del barile, che stanno scendendo a livelli indesiderabili per molti paesi produttori. Quindi le ragioni sono tutte legate proprio alla questione del calo della domanda, e questo però nelle attese dovrebbe portare poi a un rialzo del prezzo del petrolio? Ma in ottobre, quando hanno tagliato di 1,5 milioni di barili al giorno, poi il petrolio da $70 è sceso quasi sotto i 40. Ricordiamoci che il petrolio per andare da 40 a $147 ci ha impiegato 4 anni, alle 147 di luglio, per tornare indietro allo stesso punto di partenza a 4 mesi. L'OPEC vuole fermare la caduta perché molti paesi hanno fissato nel loro budget un prezzo del petrolio superiore a quello attuale, rischiano di andare in deficit. Ora che cosa faranno? Sperano di riportare prezzi su, forse quei $75 fissati in novembre dai sauditi come prezzo ideale per far sì che gli investimenti per aumentare la capacità produttiva possano essere messi in atto e garantire una fornitura nel futuro, quando forse l'economia mondiale si riprenderà. Ma è ancora tutto incerto, i mercati sembrano un po' scettici sull'efficacia di queste misure. E grazie a Roberto Bongiorni. Benvenuta Giulia Crivelli. Buongiorno. Giulia, a volte davvero le immagini valgono più di 1000 parole, e lo diciamo noi nonostante siamo in radio, però a raccontare questa crisi ci prova oggi Business Week. In copertina Cina sì, c'è una parte, diciamo un'elaborazione di forse uno dei più famosi dipinti del secolo scorso, che è l'urlo di Munch, quel simbolo di angoscia esistenziale dell'omino che si tiene la testa tra le mani e appunto con la bocca spalancata urla. In questo caso lo sfondo è bianco, anziché nel quadro naturalmente è uno sfondo molto cupo, e il titolo in rosso, ma è giustificato il panico legato alla perdita di posti di lavoro. La risposta naturalmente è sì, soprattutto negli Stati Uniti, spiega Business Week, non si è ancora raggiunto il massimo dei tagli, che probabilmente verrà raggiunto secondo alcuni nel maggio del prossimo anno, secondo altri nel dicembre del prossimo anno, quindi molti tagli a venire e altre dolorose ristrutturazioni. Poi però ci sarà la ripresa, così dice Business Week, facendo anche un'analisi dei settori più colpiti, che oltre a quello bancario naturalmente sappiamo, ci sono anche tutti l'economia reale, quindi tutta l'industria automobilistica, anche queste sono cose di cui abbiamo parlato in abbondanza e continuiamo a parlare, e poi naturalmente il settore dell'edilizia. Giulia, con la prossima notizia ci porti in America, dove tra le pieghe della crisi, tra crolli di banche e miliardi che girano, c'è anche una buona notizia che riguarda i bambini. Incredibile, ma vero. A volte noi pensiamo così agli Stati Uniti, forse ci dimentichiamo che lì il welfare state non è certo sviluppato come quello nostro europeo. Un esempio tipico sono gli asili nidi, che sono tutti privati. Però Obama l'aveva promesso in campagna elettorale e lo ha ribadito, investirà 10 miliardi di dollari per nuovi asili nido, naturalmente destinati alle persone che uno privato non potrebbero permetterselo mai. Questa sarebbe, pensate, la prima iniziativa a favore di bambini così piccoli, cioè dai 0 ai 3 anni, varata negli Stati Uniti dal 1965. Quindi certo, lo sappiamo, le economie avanzate si reggono anche sui servizi legati alle scuole, anche se sono privati, trainano l'economia, però in tempi difficili diventa importante, soprattutto per Obama, che ha fatto molte promesse alle persone con meno disponibilità, diventa importante che lo Stato aiuti le famiglie. E grazie a Giulia Crivelli. E alle 13.46 minuti le principali notizie di oggi. Dopo Abruzzo e Basilicata, arresti per tangenti anche a Napoli. Ai domiciliari sono finiti questa mattina due assessori della giunta Iervolino, in carcere l'imprenditore Alfredo Romeo, coinvolti anche due parlamentari, Italo Bocchino del Popolo delle Libertà e Renzo Lusetti del Partito Democratico. L'indagine nasce da una delibera del Comune di Napoli per affidare ad un unico gestore l'appalto di una serie consistente di lavori pubblici. E cogliendo l'occasione dell'incontro con gli ambasciatori d'Italia riuniti alla Farnesina, è intervenuto il capo dello Stato Giorgio Napolitano per ammonire che è essenziale il senso dello Stato. Il tratto essenziale è naturalmente rappresentato dal senso dello Stato, che dovrebbe distinguere chiunque svolga una funzione rispondente solo all'interesse collettivo. Alla casa di cura Città di Udine tutto era pronto per sospendere l'alimentazione ad Eluana Englaro, ma ora tutto è sospeso all'indomani dell'atto di indirizzo del ministro del welfare Sacconi. Si attende un parere sul possibile conflitto con la decisione della Cassazione. Claudio Riccobon, amministratore delegato della casa di cura di Udine. Si è ritenuto quindi di sospendere temporaneamente l'iter in attesa che i legali che tutelano la signora Englaro e la sua famiglia dimostrino che l'incursione del ministro Sacconi non intacca la validità del decreto che invece autorizza il protocollo assistenziale di distacco dall'alimentazione artificiale. Effetto crisi, l'OPEC, per rispondere alla minore domanda, vara il taglio della produzione di petrolio. In vista ci sono meno 2 milioni di barili al giorno. Il giornalista iracheno che ha lanciato le scarpe contro il presidente americano Bush a Baghdad è stato portato questa mattina davanti al giudice. Secondo il codice penale iracheno rischia fino a 15 anni di carcere. E oggi visita a sorpresa del premier britannico Brown in Iraq. Dopo il maltempo in arrivo in Piemonte, un fine settimana con il sole, ma le montagne saranno off limits per gli sciatori. La decisione è arrivata questa mattina da una riunione straordinaria presieduta dal capo della protezione civile Guido Pertolaso. In Piemonte per tutto il fine settimana non si potrà sciare. E riprendiamo dalla notizia in primo piano oggi, cioè gli arresti a Napoli per il malaffare presunto dai magistrati. Torniamo dunque a Napoli per capire chi sono i protagonisti di questa vicenda. Lo chiediamo ad Enzo Danna. Buongiorno Enzo. Sì, di nuovo buongiorno. Al centro dell'inchiesta sul Global Service c'è il noto imprenditore Alfredo Romeo, che gestisce la manutenzione del patrimonio dell'amministrazione comunale di Napoli. Si tratta del soggetto principale attorno al quale ruota l'intera indagine. La delibera sul Global Service varata ma mai partita per mancanza di fondi sarebbe stata preparata ad hoc per lui. È l'unico finora condotto in carcere. Poi ci sono gli assessori coinvolti, subito sospesi dal sindaco Ferdinando Di Mezza, con delega al patrimonio, in carica da 7 anni, faceva parte anche della precedente giunta quando era assessore al sottosuolo, e Felice Laudadio, assessore all'edilizia, in carica dal 2006, ex presidente dell'ANM, l'azienda di trasporto pubblico cittadino. Gli ex assessori Giuseppe Gambale, già sostituito in giunta, ma al quale era stata affidata la delega ai rapporti tra Comune di Napoli e ANCI, e poi Enrico Cardillo, ex assessore alle risorse strategiche, il quale forse, avendo avuto il sentore degli sviluppi dell'inchiesta, si era dimesso dall'incarico lo scorso 28 novembre. La procura, va detto, aveva richiesto una misura cautelare anche nei confronti dell'ex assessore Giorgio Nunes, il quale già agli arresti domiciliari per l'inchiesta sugli incidenti di pianura si era tolto la vita alla fine del mese di novembre. Infine c'è l'ex provveditore alle opere pubbliche Mario Mautone, che attualmente ricopriva un incarico ministeriale alle opere pubbliche. Da Napoli ho concluso. Grazie Enzo Danna, e c'è da dire che è notizia di pochissimi istanti fa che il sindaco Iervolino, di cui abbiamo parlato lungamente perché la bufera politica la coinvolge naturalmente, non è assolutamente indagata in questa vicenda. Questo è quello che emerge da fonti della procura. Indagati ci sarebbero invece anche dei magistrati, anche questa notizia dell'ultima ora. Alcuni magistrati sarebbero coinvolti nell'inchiesta, già stralciata però la loro posizione, perché di loro non possono occuparsi ovviamente i colleghi, ma si sta occupando l'ordine giudiziario di Roma. E naturalmente cercheremo di capirne di più nel corso della giornata. Adesso però andiamo all'estero per parlare di una notizia che viene dall'America. Il 70% degli statunitensi, secondo un sondaggio del Washington Post, vuole che il presidente eletto Barack Obama ritiri le truppe americane dall'Iraq entro i 16 mesi, come promesso in campagna elettorale. Se l'America però sembra ancora titubante, la Gran Bretagna sarebbe davvero pronta a chiudere la questione, o così almeno ha promesso il premier Gordon Brown, una visita a sorpresa questa mattina proprio a Baghdad. Il nostro obiettivo è vedere gli iracheni diventare indipendenti e assumersi tutte le responsabilità sul piano della sicurezza, delle forze armate, delle attività di polizia e di controllo del territorio. Così il primo ministro britannico Gordon Brown qualche tempo fa. Oggi è tornato con una visita a sorpresa a Baghdad, dove ha incontrato il premier iracheno Nouri al-Maliki. In un comunicato congiunto i due leader hanno annunciato che le forze britanniche lasceranno l'Iraq entro la prima metà del 2009, cioè tra 6 mesi. La Gran Bretagna però continuerà a cooperare. I rapporti tra i due paesi, si legge infatti nel documento, proseguiranno assumendo un'altra dimensione e saranno rafforzati da una cooperazione in tutti gli ambiti. Attualmente in Iraq ci sono 4.100 soldati di Sua Maestà, concentrati per lo più nella regione meridionale di Bassora, 550 chilometri a sud di Baghdad. Mentre Brown incontrava al-Maliki, la capitale irachena è stata scossa da un duplice attentato dinamitardo avvenuto nei pressi dell'affollata piazza An-Nahda, vicino ad una stazione di polizia e ad un ospedale. Il bilancio al momento è di 18 morti. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Restiamo in Iraq, possiamo dirlo anche se non è politicamente corretto, ha fatto ridere sicuramente mezzo mondo la scarpa lanciata contro il presidente Bush dal giornalista iracheno, però adesso non c'è più nulla da ridere perché questo giornalista rischia fino a 15 anni di carcere, sentiamo. Da un minimo di 7 anni di carcere ad un massimo di 15, è quanto rischia il giornalista iracheno che ha lanciato le sue scarpe al presidente USA George Bush. Lo stabilisce l'articolo 223 del codice penale iracheno per il reato di tentata aggressione ad un capo di Stato. Ieri l'eroe della scarpa, come oramai viene definito dai media arabi, è comparso di fronte al giudice istruttore che gli ha detto il capo d'accusa. Oggi è previsto il processo per direttissima e il fratello Houdei ha lanciato un appello sulla TV Al Jazeera per chiedere ad arabi e iracheni di scendere in piazza per difendere Muntadhar. Il giornalista ha parlato al telefono col fratello chiedendogli di sollecitare l'intervento degli avvocati che si sono offerti a difenderlo. Arif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. E a Londra questa mattina è stato condannato a 32 anni di reclusione Bilal Abdullah, 29 anni, il medico di origine irachena, ricorderete, che aveva pianificato di far esplodere autobombe a Londra e Glasgow nel giugno del 2007. 13:53, mercoledì, è il nostro momento del gossip. Per cominciare facciamo solo un brevissimo accenno, è una notizia di cui sarete già stati molteplicemente informati, il divorzio dell'anno, e direi che è una notizia anche che ci conforta in qualche modo. Gay Ritchie, ormai fresco ex consorte della planetaria popstar Madonna, una volta abbandonato dalla leggendaria consorte, non finirà a dormire sotto i ponti, questa è la buona notizia. È infatti ufficiale, come saprete sarà liquidato con 90 milioni di dollari. Fate un rapido conto voi per capirne la portata, perché a me sinceramente viene già il mal di testa. Va detto comunque che la notizia, o meglio la cifra, entra nel Guinness dei primati, perché è la cifra più alta mai pagata da una donna a un uomo. E poi, voi cuori inquieti e strapazzati, volete consolarvi con chi, pur baciato dalla bellezza, dal successo, dal denaro, ha avuto le sue vicissitudini amorose? Ebbene, Scarlett Johansson, fresca e felice sposa di Ryan Reynolds, oltre che super quotata diva di Hollywood, rivela: prima di lui ho vissuto relazioni disastrose. E chi se lo immaginerebbe? No, trattandosi di una bellezza abbagliante, effettivamente. Vedete che capita anche a loro, ai divi. Ho avuto a mette una lunga serie di problemi sentimentali. Prima di Ryan ho incontrato solo ragazzi che non riuscivano a capire davvero come io fossi, ha detto la musa di Woody Allen. Erano troppo presi, sentite, dalla loro vita e non volevano sentirsi troppo coinvolti sentimentalmente. Dico, ma chi sono questi pazzi spreconi con problemi di idiotria, ci si potrebbe chiedere, no? Insomma, come si dice, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. E detto questo, Roberta Giordano con il gossip si ferma qui e vi dà appuntamento al prossimo mercoledì. E per noi, prima di chiudere, il riepilogo delle notizie di oggi. La bufera arriva a Napoli, due arresti per l'appalto sulla manutenzione delle strade. In cella l'imprenditore Romeo, coinvolti anche Bocchino del PDL, Lusetti del PD. La Iervolino ora invoca un chiarimento. E il Presidente della Repubblica richiama la questione morale. Serve senso dello Stato, dice Giorgio Napolitano. E Luana, tutto rinviato? La casa di cura Città di Udine non ritira la sua disponibilità ad interrompere l'alimentazione forzata, ma attende un parere giuridico dopo l'indirizzo del ministro del welfare Sacconi. Positiva la reazione dei mercati finanziari al taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. Il costo del denaro in America ora è praticamente nulla, ma ora tocca all'OPEC, che di fronte alla crisi potrebbe tagliare la produzione di petrolio. Il giornalista iracheno che ha lanciato le scarpe contro il presidente americano George Bush a processo a Baghdad rischia 15 anni di carcere. In Iraq, a sorpresa, questa mattina è arrivato il premier britannico Gordon Brown. Premiati gli atleti italiani che hanno vinto alle Olimpiadi. Le nostre 936 medaglie sono il miglior biglietto da visita per l'Italia, dice il CONI. GR Extra Large, Alessio Maurizio e Anna Migliorati in studio per questa edizione, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Alle 15 la prossima edizione di GR24, noi come sempre torniamo domani a partire dalle 13, extralarge@radio24.it se volete scriverci. Buona giornata. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.